I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. In questo caso varrebbe la pena di dire molte idee e molto confuse. Stiamo parlando della Brexit, di tutti i commenti che si stanno sprecando sull'effetto che la Brexit avrebbe ed ha sulle borse, sulle obbligazioni e sullo spread. Sul fronte finanziario borsistico, come molti operatori stanno sottolineando, le vendite di questi giorni, generalizzate su tutti i settori, sono soprattutto frutto di speculazione e di una tendenza anche degli operatori finanziari di mettersi a vento, ossia capire che tutti vanno a vendere e vendere anche loro. Al contempo assistiamo anche, ed è normale in questi casi, alla cosiddetta fuga dal rischio. Si svaluta la valuta cinese, lo yuan, il Bund tedesco a 10 anni ha rendimenti per la prima volta negativi, tutti gli investimenti, in attesa di capire cosa succederà, si posizionano in maniera più sicura. Va ribadito che non c'è nessun legame tra questi movimenti e quello che potrebbe capitare con un'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Si tratta semplicemente di un fenomeno a catena che già altre volte abbiamo visto sui mercati finanziari. Diverse invece le preoccupazioni politiche. Nessuno infatti ha capito che cosa potrebbe succedere dopo un'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Non vi è mai stato un caso nel passato e fanno un po' sorridere, per non dire piangere, certi apprendisti stregoni che continuano a ripetere come un mantra senza giustificazioni che anche se la Gran Bretagna dovesse uscire dall'Unione Europea nulla capiterebbe, tutto sarebbe come prima e forse anche un po' meglio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Tra poco il Consiglio dei Ministri cercherà di dare un colpo di acceleratore alla riforma della pubblica amministrazione, una delle riforme più attese, più importanti per il Paese. Arriverà il via libera a 4 decreti di attuazione della legge Madia, di cui 3 saranno definitivi. Poi nelle prossime settimane arriveranno altri 6 decreti definitivi e via via occorrerà un'altra decina di provvedimenti per completare la riforma entro i prossimi mesi, un percorso che quindi non è proprio brevissimo. Tra i testi definitivi di oggi c'è quello che rivede le sanzioni contro i dipendenti assenteisti, tema molto attuale con i fatti di cronaca di cui molto si è parlato, da Foggia ad Acireale fino a Sanremo, dove i furbetti del cartellino, cioè i dipendenti che timbravano o facevano timbrare la presenza e poi sparivano dagli uffici, sono comunque stati licenziati. Le nuove regole promettono più severità e tempi certi per lasciare a casa i dipendenti assenteisti, diciamo poco più di 30 giorni, garantendo però, come è giusto che sia, a questi lavoratori anche il diritto di difesa. Altro capitolo molto importante è quello della responsabilità del dirigente che non segnala l'abuso. Non ci saranno, come inizialmente si era ipotizzato, conseguenze dirette, ma sarà l'autorità giudiziaria a valutare se ci sono gli estremi per contestare l'omissione d'atti di ufficio, che ricordiamolo è un reato punito da 6 mesi a 2 anni di reclusione, quindi senza rischi reali, concreti di finire in carcere per il dirigente inadempiente. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.